c'è qui Luca? Ma è ben qui. Cazzo di aro, mi è giunto un gol. Dove è giunto? È stato a fare un tiro. Io si pensare. Cappa. Uiuiui. Aspetta un attimo, cazzo. Mamma mia. Uno, due secondi. Capito? Luca, ci sei? Luca è stato liberato al bagno. Vabbè, tu com'era il tuo lavoro? Ma così così, Ma c'è vedi, stavo uscendo la cazzo di casa, ma cosa? Ehi, me devo far controllare il microfono. A vedere cosa va. Sto uscendo un po' stranissimo, no? È strano. Non so, il cappetto. Ma questo lo metto un po' a fare, capo. Due secondi che scendo in bagno, due secondi. Ciucu ciucu ciucu. Cristian? Aia. E non si vendi? Fermo già in kiwi. Aia. E così che la devi un pochettino allestire sta casetta, così è. Eh sì, come so che... Guarda, vedete, il piatto mette la porta serrata, la porta finestre, così iniziamo a mettere un po' di roba, adesso mi sono preoccupato di mobili, già allestisco abbastanza bellina e poi niente di che. Hai una fitta, me la. Non ho tutto nessuno io. Meriglia, che maledina. 350 euro. Guarda, era già affittata, sono scontato dal servitorio. Non ti ha pagato? Mi ha pagato già. No, non siamo divisaienti noi, no? Lo so, ma tranquillo, lo so. Guarda, una cosa d'appoggio la tengo, nel caso devo fare qualcosa in campagna, poi c'è quella lì, come appoggio, però male, qualcosa si può fare, capito? Guarda, sarebbe ora che ti andrà contro d'odio, me. Che c'ha le tue cose. Oh, sono rientrato, Lo lascio io. Ciao. Cosa sta dicendo, Cristian? Mio padre solo, non lo lascerò mai io, come quello che mi stai dicendo. Vabbè. Non so. Cioè, avanti, Lu. Sì, è in bagno, là. Emergenza. Ma faceva l'emergenza? Problemi idraulici, dai. Ho detto l'avvocato, ho detto l'avvocato. Tutto a posto? L'avvocato? Vado in closet. Ah, sì. Ma sto facendo male qui. Lo sento male, ha detto, tu bene lo senti. Dove senti male? La radio un po' brutta, che microfono stai usando? È 95, della ZG. Tu non lo senti, ha detto? Lo sento... Così è. Ora se lo modifichi pompa forte, mi lo sai. Li metti la capsula, ricambi la capsula, li metti la capsula di quei telefoni bianchi. Io ce ne avevo una, ma pompava forte. Adesso lo farò, aspetta un attimino, se mi sente meglio. Sì, già ti sento io. Ehi, a pompetta! Se ne è andato. Nel mio caso comunque Cri, nel mio caso parlo, non ha più di fare bibicite a nessuno più, no? Ma qui se non la voglio... Ok, io nel mio caso parlo, non devo fare più bibicite a nessuno. E io come adesso mi sentite? Bene, roba. Come sentite adesso? Adesso meglio. Il microfono originale Midland. Molto meglio, guarda. Microfono puro original Midland, trovato per 5 euro da caro Tonino. Da Fusaro, ma cos'è quello? È alimentato, è preamplificato, è alimentato dalla radio, vero? Ho trovato da Tonino AGBC, un colpo di fortuna, l'uovo originale. Ah, funziona mai bene però. Quella 6 pin in copia, direttamente, up and down e loop. Sicuramente c'è l'alimentazione. Molto probabile, non saprei, guarda. Cappa, non già va bene già. Questo microfono è già si può fa, vedo su internet, l'altro giorno, vedo cercando, 40 euro, quanto credi? Meno male che ha trovato a Torino. Sì, il 42 su internet, Torino, meno male, ce l'avrebbe a me. È stato un colpo di fortuna, non so come ha fatto a trovarlo neanche. Magari l'ha ordinato, me ne via da un bel. Ma se l'ha trovato, però ma come ce l'ha trovato? Avanti, Luca. Sono tutto un montinaggio, chi fa? Esatto, visto che tu metri a destra c'è quella specie di stanzetta dove teneva la roba lui prima. Sì, non lo so qui. E lì dentro l'ha trovato. Sì, mi sa che ci ha andato il sommo, va. Oh, è a carità, guarda. È un bel pinghiroso, va. No, non è andato, qua, di là. Scappa. Ma cazzo di cigosi, c'ha le... come si dice? Amore, le... ma tutte quelle vetrine che se ti baciano il tratto ne esce... cioè, ne esce niente un birico. Ma c'è anche un uomo che vive da solo, pure è tutto trasandato. Vabbè, quello non lo so, quello non posso dire, però ma quello come lo sanno me è trasandato, abbastanza. Sì, veramente, quelle volte ce l'ha a fare i soldi, ma ce l'ha a fare i soldi veramente. Se si attrezza bene antenne o altre cose, le vende, capito? E componenti che non si trovano, se si organizza bene fa i soldi. Aspetta, non ne ha fatti più nulla, che tu hai già detto che tu trasandato, barba lunga, cazzo, malcurata, capelli lunghi, ma è arrandaggio. Io ho chiesto un'altra antenna, io devo arrivare un paio di antenne a 5 ottavi, ma non so se sono arrivato adesso, ma devo arrivare a poi l'antenna a 5 ottavi. Via, ma si continua così. Senza dimostrare voglio vedere di chi io. Si va anche tu negli occhi. Ma chiaro che ne nessuno. Ah, vabbè, va, sì. Ti parli di ultimi da che è fila, boh. Ma se non mi ricordo, ce l'hai di notte, boh. No, guarda, mi sono preso un po' di notte perché a me perché sono chiuso sempre in macchina a Platamona. E tipo, a che ora? Poi di sera facciamo un panino. E allora, a che ora? Guarda, se io avevo già panino, avevo già panino dalle 10 in poi. Ma noi ci siamo, tipo la notte ce l'avamo con Pomponio, ieri notte mi pare, boh. Poi ieri notte eravamo con Pomponio. E cosa non c'era Antonio ieri? Giusto, Antonio ieri non c'è ieri sera, non sei entrato. No, ieri sera non sono entrato. Ero stanchissimo, non mi sentivo di entrare. E poi stavo facendo un'altra roba. Adesso sono entrato, sono entrato 10 minuti e poi chiuso. Ho capito. Giugana, vai, ma con ascolto poi lo spengo. Adesso mi do l'antenna per casa, metterò sul tetto di campagna l'antenna, poi si vedrà cosa fare. E se ce la fate pagare, l'antenna è 90 euro, la fate, 90 a 100 euro la Energy, ce la fa pagare Tonino. Va bene, già fai tu, non te ne fai gli spunti, a me non c'è problema per quello. Scappa. C'è un problema la Energy. Vuole isolata bene la bombina perché sennò entra Eva. Vabbè, già c'è un silicone per vetri, scusate io. Con quello Eva non entra. Scappa. La mandova non ce l'hai più. Ma io non c'avevi la mandova tu. Guarda quanti milioni fa la mandova, ormai non ce ne esiste più. Di fasciata? No, l'avevo messa, l'avevo fatto da due, avevo fatto una, cioè l'avevo fatto oggi in campagna. Ah, ora, quindi non è più, non ne hai. Thank you. stavo regolando un po' il coso, che magari un po' capotenza c'era. Sì. Dove sei, chi sei sparito? A Paisa. Ascolta, bene, mi stai ascoltando a me? A Pisa sì. Ah? A Pisa sì. No, non sono a Pisa, sono al monte. Io sono a Pisa. E non sei in basso, bene che mi stai ascoltando. Io sì, io ti ascolto bene. Ok, ma io sento basso, No, qua è 9-10, bello forte. Ma a me passo. Le solite sono negativa per me. Cosa probabile, dai. Ma qua è bello forte. Non lo so. No, no, adesso sono piccolo e bravo. No, qual è il mio 5 come salito? E come mai? Cosa adesso? Non senti basso. No, non sento più a Cristian, vero? Non mi senti più, come mai? Adesso sì, ma sei basso, sei 3-4 il segnale. Lo so, sono qui nella separata, ti credo. Poi c'è la antenna magnetica, non rende, capito? C'è una bella massa, voglia che rende, ma c'è la massa magnetica. Ma che è un'antenna buona, tipo la 2001 turbo, allora sì, perché c'è il doppio numero, c'è bene. Adesso metto la 2001 turbo pure io, aspetta. Aspetta perché ho lavorato il serio, che metto pure io. No, qua arriva 9-10, non c'è problema. Se lo metto una frustaliera posto l'antenna della radio, va bene lo stesso. Luisa. Vedi, anche la frustaliera va bene. Ce l'ho. Adesso mi compro il pezzo del... che va dall'antenna di sotto, lo metto in macchina, lo metto quella lì in macchina. Io al deposito c'ho una lemme piccola. E già anda già. Adoro. E la dimmi. Adesso la metto fissa l'antenna in macchina, perché l'ha fotografiata. Lo so, mi ha fatto dire quella della radio, ci metti quella. La basettina piccola. No, tanto mi sia che la lemme, la posta nera ha lo stesso attacco di antenna, non cambia. Sempre piccolo come attacco l'antenna. Ma già lo so. No, mi stavo quella della radio, metto direttamente, la metto fissa qui direttamente in macchina. La tengo già, metto obliqua, la tengo dritta, tengo obliqua e basta. Cosa? La tengo già, metto obliqua l'antenna, non dritta, se no messa per la capotta. Ma non un tanto grande, se la metti nella cosa la capotta già rende. Ma mi ha dato 1,5 metri la lemma, non è che sia tanto grande, 1,5 metri. Però la tengo già, metto obliqua, non dritta dritta, dritta obliqua, capito? Già lo so. Come nel vento non me la... non fa molti strappi sulla capotta. Cappa. Lo so che... ce l'ho avuta anche io, ce l'ho avuta con le antenne lì. E puntava, eh. Io so, sono questa vera, che la LEM... Sì, è una della LEM su piccolina, è un po' quella lì. Sì, quella piccolina tipo sviluppo, quella tipo da centimetri. Ma quella che è lunga un metro e più. Ho capito quella allora. La di 900. Non me lo ricordo, ma funzionava bene quella. Ma io ho insomma la 10-27 che conosco da sempre. Però abbiamo un bel antenna, fa 40 euro, c'è anche per i pulci. Gaffa, c'è un nome, riprendi Luca. Che regala, non lo sento io a Cristian, boh. Ma non lo sento, arriva bene qua. Cosa adesso, boh Cristian? Dimmela. Ah sì, lo sento, è basso però, che volta prima. Adesso già mi muovo, dai. Cosa? Dove si muove? Adesso metto tutto andando a domo. Sì, adesso sei salita a 9, mi botto. Perché da palazzo non sono uscito, capito? Visto, magari... Ma perché te ne c'hai qui? Una lemme da 1,5 metri. Ho capito. Chiappa gappa. Poi adesso una frustata pure. Cosa tu? Ma cosa qui? Poi a casa che ho la frustanera a casa, da tarare. No, è tolta buona la frustanera. Sì, qua c'ho anche Franco California. Quella è la tarare stazionaria, io ci vuole Rosmetro. Paga. Però mi stai fatto di moto, non correme, Non lo so lui, non è che c'è qualcuno che c'è qualche cazzo di faro a led, perché con l'inverter lì fanno casino, me. Boh, non lo so. Qua c'è pompa di calore. Una merda, sono merda e buh, quelle inverte pompate di casino, me. Non lo so, io ci ho fatto da casa, figurati. Mamma mia. Dove ti stai dirigendo? Io tutto a casa, direzione casa mia, totalmente. Ehi, piano piano, va, già ti sento. Sono già stanco per oggi, dai. Ciao. Stavo scopando, stavo pulendo a casa. Mi sono passato di moto, c'avevo a 3,35, cioè a 0 corrente. E allora che marazzurri. Stavo scopando a casa. Anzu, ma Cristian, ma devi stare ascoltando sempre. Io sì, perché? Ah, adesso, boh, ma adesso è un problema mio, non mi gioco. Ma tu sci benissimo, non c'è problema, guarda. Quando ci arrivo, guarda un po'. Prova, prova. Se per 9.30 arrivate voi tutti quanti, Che 9.30? La dottor Smith, sei molto generoso. Vabbè, la radio c'è buona, sì. Ottima, 5 è bella piena, perfetta. Vabbè, ma va certo. No, io già lo sento, adesso mi si sta abbassando un po'. Adesso Santiago 5, là, in quest'ultimo passaggio. Però già lo sento sempre, dai. Allora io sono convinto, se lui la mette a massa, buca la capota, la mette a massa, esce bene. È ben normale. Poi bisogna vedere anche quanti watt stai erogando col baracchino. Bisogna vedere anche quella roba lì. Se no si mette un 747 ed è a posto. Adesso 5 watt, forse lo conosci il mio apparato. Ora si è dato tuo plus. Sì che lo conosco. Perché non ti procuri? Mi sa che c'è la tua fratello, perché non te lo fai dare? Da Antonio, 747. L'ha fatto dare tu perché guarda, mi ha fatto un lavoro di apparecchio, mi ha fatto dei scherzi. Faccio di quanto ne vuole, me lo prende. Ehi, cappa. Ripeto un altro che mi hanno mandato un messaggio per vedere un video, aspetta. Luca. Sì. Ascolta, io adesso chiudo. Mi sto addormentando, sono un bestarco. Ciao, buonanotte, dai. Ci sentiamo domani, anche domani mattina, se nel caso, ok. Devo andare a caricare presto, però già ci sentiamo lo stesso. Ciao Cristian, buonanotte a tutti. Tanto, mo carica la batteria, buon tutto, dai. Ciao, ciao. Tutto, ciao, non c'è metà pure, la parte mia. E via, vi saluto. Ciao. Buonanotte Lu. Ciao Antonio, dai. Ciao Cri, chiudo pure io perché tanto poi mi addormento e ti lascio solo. Dai. A domani, buonanotte a tutti. Ciao Caponponio. Lu, chi è che cosa vuole mio fratello? Dicalo per me. Dica per un altro, non per me. Che cosa? Il 747, che non è per me, che è per un altro. Ma se lo vende? Non lo so, se ne ha qualcuno a vendere. Adesso glielo chiedo, dai, va bene. Poi ti farò sapere. Non dire che per me che tanto non... Vabbè, poi ti spiegherò quella, dai. Sì, non ti preoccupare, dai, tranquillo. Dai, ciao caro, buon caricabattino e buon tutto. Dai, ci vediamo domani, dai. Come retto da Cagliari. Ciao, Fredecci, ciao Antonio, ciao Sara, ciao, buonanotte. Ciao, ciao, ciao, buonanotte. Ciao, ciao.